città presso l'Arno una sera di primavera. Vidi sull'aia d'un casolare parecchie coppie a ballare. M'avvicinai ai vedemmi, mi fanno venite, venite avanti. Sapete qua, ma noi non si sa ricevere come in città. Gli è il valse della povera gente, gli è un semplice valse rifatto di niente. Con due chitarre e un organino si ballanzino al mattino. Non è liscio il nostro impiantito, si rischia a ballare di restare lì stecchito. Senti dire bellona biondona, gli è un valzer fatta alla bona. Eccoti che da una strada si vide avanzarsi una figurina. Certo veniva per curiosare, e l'era la padroncina. Fermi si disse, e la bella creatura rispose, su, continuate. Io vengo qua, che ci sarà, chi un poco danzar mi farà. Gli è il valse della povera gente, gli è un semplice valse rifatto di niente. Con due chitarre e un organino, si balanzino al mattino. Attenta che lì c'è una buca, gli è qui che s'attacca ogni giorno la sciuga. E gli è un valse rappassi tra sassi, gli è qui che si cerca spassarsi. Quando al mattin splende il sole dorato, si vede che la massaia la stende panni fini e bucato, di certo è molto più gaia. Oh, buona donna, oi che l'è quella striscia, distesa lì sotto il sole. Quella ti famiamo, andare in là, allora una vecchia dirà. E gli hai valse della povera gente, anch'io lo ballai. Ma ora non l'ho più alla mente, si stava, lo ballavo da giovinetta, quando ero un poco civetta, perché ho civettato di morta anch'io, Adesso lo ballan quell'altre, le scicascan tutte, anche quelle più scaltre, e gli ho un valse saltato e strisciato, e ci vogliano le fasce i curato.